azione. Radio azione. Contro l'informazione, le tue provocazioni, musica. Informazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org. Thank you. Una parte di Carcelia è mano ai ribelli che, armi in pugno, intraprendono il tunnel fognario in cerca di una via d'uscita. Ma prima di riaffacciarsi in superficie, hanno da far saldare il conto al direttore del carcere, Carl Erit. C'è ancora un'altra sezione piena di detenuti e transport, ma è la sezione degli infami, e dai ribelli non va di rischiare ulteriori proprie vite per liberare una manciata di pezzenti. D'altronde, la possibilità di ribellarsi l'hanno avuto anche loro, ma da buoni servi se ne sono rimasti dentro le loro celle buoni e zitti. Se proprio si deve rischiare la propria vita, allora è meglio farlo tentando di farla pagare a chi per anni ha perpetrato ogni tipo di tortura contro i sequestrati. I sequestrati che camminano a passo veloce brandendo armi e urlando vendetta, seguono Valerie che li sta accompagnando all'ufficio di Lerit. Sono arrivati davanti alla porta blindata del direttore. Valerie, con l'occhio accostato alla porta, da un paio di corpetti con la punta delle dita. Dall'altro lato risponde una voce affannata e impaurita. K11? Sì, direttore. Ma com'è la situazione nelle sezioni? Abbiamo ripristinato la calma, signor direttore. Ma abbiamo dovuto fare qualche morto, signor direttore. Quanti ne avete ammazzati di quei pezzenti? Una decina, penso. K11, appena arriveranno i rinforzi e verrà ripristinato tutto il sistema, ti farò premiare per quello che hai fatto, ragazzo. Signor direttore? Sì? Il sistema lo stiamo già ripristinando noi, signore. In che senso, K11? Nel senso che lo stiamo resettando, signore. Ci sono troppi virus in questo sistema. Non ti capisco, parla chiaro, K11. Buona parte dei virus li abbiamo già eliminati, ma così non funziona comunque. Abbiamo bisogno di distruggere tutto per ricreare. Distruggere tutto? Ma siete matti? Sì, distruggere tutto. A partire da te, lurido bastardo. Siamo venuti a prenderti, Lerit. Chi siete? Siamo i lupi cattivi. Su, apri quella porta, Lerit. Il vecchio grasso e flaccido direttore con uno scatto si alza da terra e si attacca con le spalle alla parete di fronte alla porta. Ah sì? Siete venuti a prendermi? Purtroppo non sarà facile buttare giù la porta per voi. Lerit si lascia andare in una risata esterica. Poi, pochi secondi dopo, una scarica di mitra distrugge la serratura della porta sotto gli occhi impietriti di Lerit. Questa volta il cancello per l'inferno si spalanga definitivamente davanti al direttore ed una folla di dannati sono là davanti a lui pronti a divorarlo. Lerit chiede inutilmente aiuto mentre i ribelli avanzano verso di lui. Poi all'improvviso una scarica di mitra e due ribelli, gli ultimi della fila per entrare nell'ufficio, cadono a terra. Un comando di Tarspok è arrivato per la sicurezza del direttore. Valerie, non prima di tenere in ostaggio Lerit, con un mitro puntato alla testa, urla ai ribelli di fare quello che dice lui se vogliono uscire vivi da Carcelia. Allora statemi a sentire. Tutti da questo lato, dietro la porta, se vogliono liberare questo porco devono entrare e ammazzarci tutti. Non possono fare azioni che mettono a rischio la sua vita. Da questo lato siamo protetti e appena entrano fate fuoco. Lerit è così terrorizzato che se l'è fatta sotto. Valerie si accorge dai pantaloni bagnati del direttore e lo guarda con scherno. Hai paura ora, vero, vecchio bastardo? Ci godevi a torturarci. Ti pensavi irraggiungibile e sicuro, ma niente è mai sicuro, se non la morte. Lerit continua la scena muta. Non osa dire, oppure per paura non riesce a far uscire una sola parola. I Tarspok fuori al corridoio sono in tutta una ventina e pensano che i ribelli, sì e no, sono lo stesso loro numero. Ma i ribelli sono almeno tre volte in più e sono tutti là ad aspettare gli uomini topo che si facciano avanti per poi divertirsi con Lerit. «Direttore, come sta?» Il capo del comando urla da fuori al corridoio per assicurarsi della salute di Lerit. «Parla, bastardo, e digli che siamo in quattro qui dentro, altrimenti...» Valeria allora prende un coltellaccio e, puntando la lingua di Lerit, la prossima volta te la farà in bocca invece delle mutande. Lerit, con una voce tremante, risponde alla domanda del suo uomo. Sto bene, aiuta! Valeria poi tappa la bocca a Lerit immediatamente. Poi fa strappare da un ribelle un pezzo di camicia del Taspok che giace a terra tutto rannicchiato come un topo morto e lo infila nella bocca del direttore per non farlo parlare. Improvvisamente il computer si riavvia e uno degli schermi torna a funzionare. Bloccate la porta, rischiamo di rimanere intrappolati qui dentro. Poi davanti a Valerie, sullo schermo che a scatti manda le immagini dei vari reparti, appare il corridoio appena fuori la porta dell'ufficio di Lerit. Il refrattario si riesce a vedere il comando che è là fuori, poi come un sacco della spazzatura prende Lerit e lo sbatte in un angolo a terra. Sodium haze, all meaning is Tradizione, 1 luglio 2014 si inizia questo nuovo e ultimo mese per quanto riguarda le dirette di radiazione, poi se ne riparlerà a metà settembre inoltrato, ora vedremo quando ricominciare, però quando faremo uscire anche CD e libro quell'ottobre CD e libro di Nazero 13 benefit per i detenuti, lo ricordo. E allora ricordiamo che oggi la diretta d'azione è lunedì e quindi interesserà controinformazione, ma soprattutto lettura di Sabotatori di Edward Abbey, che ci abbiamo alla fine, e quindi abbiamo preso anche l'abitudine di rimandare la diretta precedente come prediretta, iniziando oggi abbiamo iniziato un'ora più tardi, però 2 ore prima inizia la prediretta e normalmente si manda la diretta della settimana prima quando c'è la lettura, altrimenti si manda una playlist musicale. Ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione: radiazione@autistici.org per chi vuole mandare mai comunicati, scritti, materiale da far pubblicare sullo sito di radiazione, mi raccomando materiale affine a radiazione, oppure dall'anno prossimo tra qualche mese quando si ricomincerà, per darci consigli sui libri da leggere durante il lunedì di radiazione. Fatelo, non l'avete fatto fino ad ora, per la prossima stagione lo farete. Invece il sito di radiazione è radiazione.org, dove potete controllare la controinformazione aggiornata quotidianamente, dove potete scaricare un po' di materiale attraverso la pagina download o riascoltare le dirette d'azione attraverso la categoria ascoltare dirette d'azione, e là ci trovate tutti i podcast più qualche documentario, e lo ricordo c'è un video fatto dai compagni delle CCF in Grecia in carcere sul progetto Fenice, che è stato appena pubblicato ieri su Radiazione con i sottotitoli italiani che abbiamo tradotto io e la compagna che porta avanti Radiazione in lingua serbo-croata, e che potete o vedere attraverso il sito di Radiazione, oppure chi vuole può scrivere a Radiazione alla mail e chiederci il file di sottotitoli nel caso vogliono essere tradotti in altre lingue oppure vogliono essere modificati. Allora, la radio trasmette su server anafia.net, messa a disposizione dal compagno di The Anarchist Library, che ringraziamo sempre. Ora ci ascoltiamo un brano di Alva Noto e Blix Abarghed, Latmarut Handshake, e poi dopo si torna qui e si inizia la lettura dei Sabotatori di Edward Abbey. Aus dem Dschungel und zurück ins Nichts, aus La voce inconfondibile di Blixa Bargeld ci introduce a questo nuovo capitolo dei Sabotatori di Edward Abbey. Giusto per i nostri ascoltatori o le ascoltatrici che si sono persi la rimessa in onda della diretta della settimana scorsa, ricordiamo che George Washington Heidack, uno di questi protagonisti della batteria che sta facendo un po' di danni a metà degli anni 70 negli Stati Uniti centrali, è appena riuscito a sfuggire da una caccia all'uomo intrapresa contro di loro da una posse, così come vengono definite le bande paramilitari dei razzisti nordamericani. Si è rincontrato con i suoi amici e adesso sono in una pausa di riposo. Mamma mia, cosa è successo? Lei lo fissava con gli occhi fuori dalle orbite, la bocca spalancata per lo stupore. E così eri là, disse Doc, intrappolato sull'orlo di un precipizio di 30 metri, esatto, con il vescovo e i suoi fanatici scagnozzi che avanzavano verso di te, armati fino ai denti e avidi di vendetta. Sì, se l'erano un po' presa. George stappò la sua quarta lattina di birra Schlitz nell'ultima mezz'ora. Non c'era nessuna possibilità di scendere né di proseguire, proprio così. 6-1, 6 contro me. Sì, merda. Portò la lattina al suo muso sudicio. Allora non restò che ascoltare i suoi orrendi gargarismi e rimirare il suo e giù del suo villoso pomo d'Adamo. Smith, girando lo spiedo su cui era impalata la loro cena, sorrise pensoso, guardando le fiamme. Il dottor Sarvis sorseggiava il suo Wild Turkey, corretto con acqua piovana, mentre Bonnie si fumava la sua Ovo Maltina. Sul fondo, nelle ombre della sera sotto la luce soffusa e velata della rete mimetica stesa tra i pini, era parcheggiato il furgone di Smith. Accoccolato contro di esso si trovava la Jeep sbianchita, azzurra e rugosa, con cofano, tettuccio sedile e carico coperto dalla tela incerata, rivestiti da una pellicola spessa qualche centimetro di terra ramata. Nel parabrezza c'era un buco frastagliato a forma di stella grande come una palla da football americano. E allora merda. Beh, che cosa hai fatto? Ma quando? Dai, George! Heidack abbassò la lattina di birra. Smith lo stava guardando, lui gli fece l'occhiolino, poi guardò Bonnie e Doc. Oh, Cristo, È una storia complicata, non sto a raccontarvela tutta. Diciamo che me ne sono andato da là, ho guidato su per il combo wash, ho beccato la strada e cazzo, eccomi qua, datemi un po' di quella roba, fammi fumare. Lo fissarono tutti senza proferire verbo. Bonnie gli passò la canna, Doc si accese un nuovo Marsh Wheeling, si addolzì e girò lo spiedo. Ok, disse Bonnie. Lasciamo stare, parliamo di qualcos'altro. Di che cosa possiamo parlare? Ma se insisti... No, no, no, basta così. Smith disse... Hai calato giù la Jeep con l'argano. Naturalmente, non c'era altro modo. George sorrise orgogliosamente a tutti loro. Nella breve pausa che seguì riportò all'altezza delle labbra la birra. Appariva emaciato, sporco, affamato. I suoi occhi arrossati per la luce del sole e la fatica erano cerchiati, come quelli di un procione esausto. Tuttavia non era pronto ancora a sdraiarsi, troppo stanco per dormire, aveva spiegato. Che cos'è questa storia dell'argano? No, dell'organo, Bonnie voleva sapere. Argano, argano, la corresse Doc. Quell'affare che c'è sul davanti, ci sono legati una cinquantina di metri di cavo d'acciaio, con quello niente è impossibile. Ehi, aspetta un momento, intervenne Doc. Stai dicendo che hai calato la Jeep giù da quella rupe? Sì, una rupe sporgente. Non è stato semplice. È quella che noi scalatori chiamiamo discesa libera a corda doppia o free rappel, spiegò Smith. Free rappel? Dice Doc. Cos'è? Un nuovo movimento per la liberazione dei repellenti? Rappel, rappel, rappel de corde, spiega Bonnie. C'est un moyen de descendre un roche vertical avec une corde double recuperable ensuite. Esattamente, conferma Hydak. È una tecnica che usiamo sempre, dice Smith. Però ogni tanto senza la Jeep, direi. In realtà, per quanto ne so io, è la prima volta che viene fatto con una Jeep. E se non conoscessi l'onestà di George, sarei portato a sospettare che abbia un po' forzato la realtà. Non proprio mentito, attenti, perché non sospetterei mai di George di una cosa del genere, ma forse solo un po'... semplificato la realtà, suggerì Bonnie. Ecco, la parola giusta forse è questa qui. Oh, forse in qualche modo romanzato. Sì, disse Hydak, cazzo, se non volete non credetemi, ma la Jeep è qui, proprio davanti ai vostri dannati occhi. E restituì a Bonnie il suo piccolo manufatto. La Jeep sembra la stessa, Mrs. Smith, ma potrebbe anche non essere lei, potrebbe essere una di quelle che chiamiamo facsimile. Ma non sto dicendo che è impossibile, anch'io ho tirato su e giù il mio furgone per delle pendenze, niente male. Ma devo ammettere che non ho mai fatto un free rappel con un camion. Molto bene, disse Doc. Diamo per scontato, se non altro per la novità della cosa, che George non stia mentendo, ma ho qualche domanda tecnica da rivolgergli. Non sapevo, per esempio, che un argano potesse operare alla rovescia. Non servirebbe un granché altrimenti, disse Hydak. E hai ancorato il cavo al ginepro. Esatto. Bonnie fece per interromperlo, ma Hydak mise giù la sua lattina già vuoto e si allungò per prenderne un'altra. Sentite, disse. Volete che vi racconti tutta la storia o no? Ok, allora state zitti e vi racconterò esattamente come ho fatto. Quando ho visto che il vescovo e i suoi uomini mi stavano dando un tempo sufficiente, la prima cosa che ho fatto è scendere dalla Jeep e misurare lo strapiombo. La mia corda è lunga 36 metri, il salto era di 33 metri. Questo mi creava dei problemi, perché se la discesa fosse stata di 25 metri o anche meno, avrei potuto fare un vero rappel con la Jeep sull'argano. Ricordate, c'è un cavo di una cinquantina di metri, avrei potuto doppiarlo intorno al tronco dell'albero e agganciare il nodo scorsoio al telaio e calare giù la Jeep fino in fondo. E segare l'albero, disse Smith. Hai ragione, forse. E una volta raggiunto il fondo avrei potuto sganciare il nodo scorsoio e ritirare il cavo senza problemi, ma il salto era troppo alto, questo significava che avrei dovuto lasciare il nodo scorsoio del cavo in cima, agganciato intorno all'albero, e quindi escogitare un altro modo di scendere dopo aver calato la Jeep. Una volta arrivato giù, chiede Doc, non potevi semplicemente staccare il cavo dall'argano? Non pensavo di averne il tempo, inoltre è contrario all'etica dello scalatore lasciare degli aiuti sul posto una volta che hai concluso la discesa. Poi non volevo che Bishop Love, il vescovo, sapesse dov'ero o come avevo fatto a scendere o se ero sceso. Volevo lasciargli qualcosa su cui pensare per i prossimi anni. Così dovevo togliere il cavo da quell'albero e ritirarlo. L'unico problema era capire come, e mentre riflettevo su questo ho controllato che all'interno fosse tutto ben assicurato e quindi ho spostato la jeep tra l'albero e la rupe in retromarcia fino all'orlo. In tutto questo tempo il vescovo e la squadra continuavano a salire la cresta, ma a me sembrava di avere almeno ancora 5 minuti. Se la prendevano comoda. Poi si sono fermati a circa 1,5 km più in basso, sono scesi dalle macchine e si sono messi a confabulare per un altro po' tra loro, quindi hanno ripreso a salire in quella che secondo loro doveva essere una formazione da combattimento. Ma se avessi voluto e potuto li avrei fatti fuori ad uno, ma passami la canna. Lo sapete, cattive pubbliche relazioni. Finisci di raccontare questa dannata storia, disse Bonnie, che poi mangiamo. E così ho avuto tutto il tempo, ho agganciato il cavo dell'argano intorno alla base del ginepro, ho legato un'estremità della mia corda al gancio del cavo, che è bello largo, se volete controllare prego, dato che non mi credete. Niente digressioni, sorridendogli con gli occhi che le brillavano di amore malcelato, Bonnie si rotolò tra le dita lo spinello e infilò quel che rimaneva nel suo tubetto Tampax. Va avanti. Ok, poi ho messo la jeep in folle, ho acceso il motore e ho spinto la jeep indietro oltre il bordo quanto bastava per prendere la parte lenta del cavo, circa 1 metro, dentro l'argano. È bloccato, no? E la jeep è sospesa, solo le ruote anteriori sono sulla roccia solida con il motore in folle. Ora inserisco la marcia contraria dell'argano e la faccio scendere. La fai scendere? Disse Doc. Esatto! Fai scendere la jeep con la corda sospesa per aria? Sì. E che avresti fatto se l'argano si fosse bloccato? Non è successo. Sì, ma supponi di sì, mi sarei calato a doppia corda. Silenzio. Capisco, disse Doc. O credo di aver capito. Quanto pesa la tua jeep, Hydak? Ah, con tutto l'equipaggiamento, circa 1,5 tonnellate. Poi c'è la benzina. E l'argano ha tenuto? Beh, quello è un ottimo argano. Un buon. Naturalmente scendendo ci siamo un po' attorcigliati e questa è la cosa che mi ha fatto preoccupare più di tutte. Ho avuto paura che il cavo attorcigliato potesse spezzarsi, ma non è successo. Smith mescolò lo shish kebab, pezzetti di carne di manzo, pomodori, peperoni dolci, pomodori, ciliegia, cipolle, niente è troppo buono per il popolo degli zoccoli, e guardò lontano e sotto le pareti del canyon, il tavolato boscoso, la strada distante che arrivava da est. George, disse, sei un vulcano di idee. Hydak aprì un'altra birra, la penultima. Ogni birra è sempre la penultima, e riprese. E allora sudavo come un cammello, è inutile che ve lo dica, abbiamo toccato il fondo con un po' troppa forza, ma non si è rotto niente, ho frenato la jeep e ho fatto girare al contrario l'argan a sufficienza per avere un po' di cavo molle e ho dato un bello strattone alla mia corda, ho liberato il gancio e sfilato la corda. Il cavo è venuto giù come 1 tonnellata di mattoni e la corda subito dietro. Il gancio è finito dentro il parabrezza e ha ammaccato un po' di cose, ma non me la sono sentita di lamentarmi. Forse avrei dovuto prima mettere la jeep al riparo sotto la sporgenza, ma non è che si può pensare a tutto, diamine, ne ero comunque contento di quello che avevo fatto. Una volta sceso il cavo, ho portato la jeep sotto la sporgenza, nascosta alla vista, e ho ritirato lì il cavo, poi ho aspettato. Abbiamo dovuto aspettare parecchio. Bonnie domandò. Perché abbiamo? È perché eravamo io e la mia jeep. Smith cominciò a togliere la cina dallo spiedo. Prendete i vostri piatti, compagni. Doc chiese, ma non potevano vederti là sotto? Nella parete c'era un incavo come una caverna dal bordo. Non avevano modo di vedere me o la jeep. Ma sono stati lì intorno per tutto il pomeriggio. Li sentivo discutere sopra la mia testa. Ovviamente Dudley teneva banco. A quel punto il mio problema principale è diventato come trattenere le risate. Se ne sono andati che ormai era la sera. E lì ho sentito che si allontanavano, ho comunque aspettato fino a mezzanotte per sicurezza. Allora Ho avvolto il cavo sull'argano, ho preso una strada che portava a Combwash e mi ci è voluta tutta la notte. La mattina mi sono nascosto sotto i pioppi, il pomeriggio tardi. Visto che non era successo niente, sono arrivato fin qui. E adesso mangiamo. George, disse Doc. Sì, George, sì. Ma davvero pensi che qualcuno possa credere a questa storia? Hydak sorrise. Eh no, cazzo, mangiamo però, là. Ma la prossima volta che vedi il vescovo, chiedigli che cosa è successo a Rudolf il Rosso. Deus ex machina, disse Bonnie. We'll be right back. E questi erano Scapaflow con il brano Drugstore, dove dopo la prima lettura per quanto riguarda i sabotatori di Edward Ebbey per la diretta odierna, ora si passa alla controinformazione con la prima notizia che arriva dall'Inghilterra, anzi diamone una breve subito perché è arrivata tramite messaggio, un messaggio telefonico, che ci avvisa che praticamente lo sciopero della fame in Grecia, che era portato avanti da tanti detenuti nelle varie carceri greche, è finito perché molti detenuti non se la sono sentiti più di andare avanti, e inoltre hanno cercato di sabotare questo sciopero della fame, non si sa ancora come, però poi penso che ne sapremo prossimamente. Allora, dicevo, la prima notizia di controinformazione che arriva da Bristol, UK, dove la FAI e l'Elf Rouge Fire Brigade rivendica una serie di attacchi incendiari. Leggiamo il testo rivendicativo. Poco prima dell'alba questa mattina abbiamo dato via ad un tripudio di fuoco mirato lungo la Glebe Road, che si collega alla via principale di Bristol Est, Church Road, bruciando veicoli aziendali di lusso della vigilanza privata e dei cacciatori. Fiamme nelle arterie della città carcere per rompere la bugia della pace sociale e intensificare le ostilità. I servizi di emergenza sono stati troppo lenti per catturare i responsabili, mentre la via deserta era illuminata da un capo all'altro come delle torce. In poche parole, i furgoni e le macchine prescelte erano componenti attive della vita che rappresentano e anche impongono. Virgin Media fornisce televisione e internet e anche una rete nazionale di fibra ottica. Per tenerci avviluppati nella moderna economia tecnologica, lo spettacolo delle celebrità, videogiochi e pubblicità sono il suo profitto. Distruggiamo quello che ci addomestica e ci sbalordisce. Una macchina elegante come una 4 è un ulteriore sputo in faccia sia per i nullatenenti che per la terra. Nelle aree facoltose, nelle zone o nelle zone sotto la gentrificazione sono usuali, in Inghilterra come Argentina, a Sydney come a Berlino, e sono là per essere prese a nostro piacimento. Il veicolo di sicurezza della BMW in genere vuol dire uno in meno che svolgerà il loro compito, lungo tutto il Regno Unito, di tenere i ricchi lontani dai poveri con minacce o con la forza, e di espansione delle telecamere di sorveglianza sotto le quali passiamo centinaia di volte al giorno. I servi dell'ordine istituito hanno scelto da che parte stare. Azione istituzionale contro i costruttori dell'autorità sopra di noi, intorno a noi, dentro di noi. Anche un attivo cacciatore di volpi o sostenitore e promotore dell'uccisione degli animali selvaggi per puro divertimento, cioè proprietario di un robusto 4x4 con adesivi pro caccia, ha ricevuto le fiamme per regalo. Alcuni considerano incivile questo sport cruento, ma in realtà è un perfetto riflesso del disprezzo per i non umani, del diritto della classe superiore e della collaborazione tra le classi, che è la base di un contenuto della civiltà. Trasformiamo i ricchi e i loro servi terrier nelle prede, diamogli la caccia nella città o in campagna. Questo atto ha coinciso con la chiamata all'azione collettiva in sostegno del nostro fratello incarcerato Gabriel Pombo da Silva in Spagna, che si oppone al trasferimento forzato a modulo di massima sicurezza. Speriamo che i nostri saluti infuocati raggiungeranno attraverso le sbarre le carceri delle lupe vagabonde Trudeau e Ruillé, assieme al compagno Carlos Chivo López in Messico. Tutti loro affrontano le accuse per attacchi Molotov contro lo Stato e il capitalismo. Il nostro pensiero va anche ai combattenti anonimi per la liberazione animale che i procuratori hanno cercato di collegare al foglio anarchico Aprorsbladet in Svezia, e al condannato che ha anche avuto il buon senso di rimanere in silenzio di fronte agli sbirri. Mentre Alfredo Cospito, Nicola Gai, Gianluca Iacovacci e Adriano Antonacci saranno tutti sotto processo il prossimo 4 luglio. Sfruttiamo l'occasione per illuminare le loro celle con il calore della nostra solidarietà. Detenuti sulle strade, selvaggi e liberi. Sugli accusati a Bristol abbiamo appreso dal fecciume della stampa che nella mattinata del 12 giugno un individuo è stato fermato in macchina dalla polizia nell'area di Bradley Stoke per essere sospettato di essersi attrezzato per commettere un reato, e poi arrestato con l'accusa di 4 incendi dolosi. Questo in contesto di quattro sabotaggi coordinati nei giorni precedenti, che provocarono l'interruzione di molti segnali telefonici e servizi radio, e che sono già stati tutti dimenticati da Livewire's Fai Elf, come riportato nel feccione della stampa e pubblicato sulle pagine di controinformazione anarchico, però nuovamente messo a tacere dai moderatori di Bristol Indie Media. Dopo il silenzio risonante del movimento anarchico locale, la prima cosa che vogliamo dire è: anche se nessuno di noi, della nostra rete o delle affinità fugaci, sa chi è questa persona o qualcosa sulle sue inclinazioni o complicità, che la mossa repressiva dello Stato mira a scoraggiare azioni simili, e noi non rimarremo compiacenti. O la polizia ha fatto un arresto sconnesso nello sforzo di cambiare certe critiche a cui è stata sottoposta dai media regionali e nazionali per aver fallito nel fermare la serie di attacchi anarchici nel loro territorio, o questo individuo aveva veramente deciso di combattere in qualche modo il sistema quella notte, singolarmente nel contesto di gruppi informali decentralizzati, aperti ed ognuno come la PAI e ELF, o in anonimato, e in questo caso è un potenziale compagno e noi lo dovremmo difendere come tale. Sembra per adesso che la polizia nutra poco interesse nell'individuo arrestato, secondo il feciume della stampa, perché poi dopo l'interrogatorio è stato rilasciato su cauzione, però ci appelliamo a tutti coloro con più informazioni di rilasciarle qualora lo ritengano opportuno. Nel frattempo, solidarietà con Livewire's e con tutti coloro che condividono le loro motivazioni a fare la stessa cosa: Federazione Anarchica Informale, Earth Liberation Front, Rouge Five Brigade. E questo era il testo proveniente dal Regno Unito per quanto riguarda questa serie di attacchi. Ricordiamo che Alfredo Cospito e Nicola Gai non solo andranno il 4 luglio, ma già c'è stata una prima udienza per quanto riguarda il processo d'appello per i due compagni, in cui i due PM hanno chiesto la conferma della condanna. Quindi il 4 luglio poi penso che parleranno le difese. Ora ci ascoltiamo un brano di D.I.M. con il brano Beat Conspiracy, e poi dopo si ritorna qui con I Sabotatori di Edward Abbey. Things about battle that movies cannot teach you, and that is the true horrendous noise of battle. Bullets cracking, bombs landing, artillery shells exploding, people screaming. It's just a cacophony that's almost deafening. Bombs being seen, must be created. Mangiarono e bevvero e videro il tramonto infiammarsi e scolorire. Il dottor Sarvis tenne la sua celebrata conferenza sulla mega macchina. Il fuoco si smorzò, soddisfatto di sé vittorioso. Haydak fissava al centro i tizzoni incandescenti di ginepro e pensava all'espressione disegnata sulla faccia del vescovo. Aveva rischiato la vita per una risata? Eh sì, e ne valeva la pena. Nel frattempo Seldon Sean Smith, tranquillamente allerta, rilassato ma vigile, guardava a ovest i colori tenui del tramonto, a sud i canyon bagnati dal crepuscolo, a est la notte incipiente e a nord il pan di zucchero. Elk Ridge e le Abajo Mountains. Non preoccupato, non ansioso, ma consapevole. Mi sa che il tempo sta cambiando, pensò. Haydak sbadigliò, la tensione cominciava ad allentarsi. Bonnie gli aprì un'altra birra. È arrivato per te il momento di riposarti, bestia. Il dottor Sarvis si asciugò le mani su uno straccio e contemplò il ricco cielo rosso dorato mezzo coperto dalle nuvole. Ben fatto, Yavi. Sta arrivando il brutto tempo, disse Smith, seguendo lo sguardo del dottore. Si inumidì il dito e lo sollevò in aria. Il vento è giusto. Stanotte potrebbe anche venire giù qualche goccia. O magari no. Non ci si può mai fidare del tempo da queste parti, come diceva il mio vecchio, quando non aveva altro da dire, il che, devo dire, succedeva abbastanza spesso. Beh, allora vado a infilarmi nel sacco a pelo, dice Haydak. È quello che voglio dire, proseguì Smith. Forse sarà meglio tenere sempre qualcuno di vedetta. Comincio io. Svegliami a mezzanotte, disse Haydak. Tu è meglio che dormi, George. Chiamerò Doc. Che ne dite di un pocherino, dice Doc. Una puglia minima, rilancio il piatto, puntate con il limite. Nessuno rispose. Doc è sbronzo, disse Bonnie. Vegliami. Tu e George potete stare di guardia domani notte. Bonnie allora condusse Haydak al nido d'amore che aveva preparato, i loro due sacchi appena incernierati insieme su un paio di pelli di pecora sul bordo della mesa, sotto la dolce aria dei pini. Non lo so, disse Haydak. Come non sai? Non so se dovremmo farlo stanotte. Bonnie si raffreddò all'istante. Perché no? Haydak si trova. C'è Doc qui. E allora? Non vorrei. Insomma, Doc è ancora innamorato di te, vero? Insomma, Gesù Cristo. Bonnie lo fissò ironicamente. I suoi occhi distanti 12 centimetri e più in basso di lei, lui poteva sentire l'odore della sua colonia selvatica, come la chiamava? L'art du temps. Quella fragranza significava No Dream Cape Royal Point Sublime. Quanta delicatezza, disse lei e lo afferrò per la camicia con forza. Ascolta, Haydak, stupido ritardato, Doc non è come te. Doc è una persona adulta, lui accetta il fatto che io e te siamo amanti, non abbiamo bisogno di fare le cose di nascosto. E non gliene frega niente. Frega. Lui si preoccupa per me e per te, è una persona a modo, che problema c'è? Non lo so, ma non è geloso, no. Non è geloso. Adesso, pensi di venire a letto con me o vuoi startene qui a discutere tutta la sera mentre io me ne vado a letto? Decidi in fretta, perché io non sono una donna paziente e detesto gli uomini senza carattere. Haydak rifletté attentamente sulla questione per 2 secondi e mezzo. La faccia larga e irsuta si ammorbidì in un sorriso imbarazzato. Cazzo. Sono anche un po' stanco. Più tardi, nel corso di quella notte, mentre Doc montava la guardia vicino alla caffettiera gorgogliante sopra le ceneri incandescenti del fuoco, Haydak venne svegliato gentilmente da alcune gocce di pioggia cadute sul suo viso. Uscì da un sonno tribolato. Sogni di cadute, per ritrovarsi sulla schiena a fissare il cielo nero e inchiostrato, senza stelle. Per un momento fu assalito dal terrore, poi sentì il corpo liscio e tiepido di Bonnie muoversi al suo fianco e ritrovò la consolazione, la pace, la sicurezza e anche la voglia di ridere. Che c'è, Rudolph? Gli chiese lei. Sta piovendo. Ma sei suonato, non sta piovendo, dormi. Ma sì, l'ho sentito. Bondi cacciò la testa fuori dal cappuccio del sacco a pelo. È buio, pesto, va bene, ma non sta piovendo. Beh, un minuto fa pioveva, sono sicuro, stavi sognando. Sono Rudolf il Rosso o chi altro? E allora... Maledizione, Rudolf il Rosso, la conosce la pioggia, cara mia. Ripeti un po'. La mattina presto, su nel cielo nuvolo dell'alba, sentirono un aeroplano. Non muovetevi, disse Smith. Stavano tutti, tranne Heidegger, facendo colazione sotto gli alberi, sotto un angolo della rete mimetica, e non guardate in su, dove è George? Sta ancora dormendo, è coperto, sì. Smith guardò le ceneri del fuoco del giorno prima, fredde e morte. La colazione l'avevano preparata sulla cucina a gas Coleman. L'aeroplano ronzò non troppo in alto, allontanandosi verso ovest. Mentre volava in direzione di Hyde Marina sul lago Powell, Smith lo studiò con attenzione, munito di binocolo. «Hai riconosciuto qualcuno?» chiese Doc. Pensava ai sensori di calori, alla spettrografia infrarossi. Non c'era posto in cui fosse possibile nascondersi al tecno-tiranno. «Non riesco a leggere le sigle, ma non mi sembra la polizia di Stato né l'ufficio dello sceriffo. Probabilmente si tratta di uno dei tipi della squadra della ricerca e soccorso. Eldon, so che vola, anche Bishop Love, ora che ci penso. E allora che facciamo?» disse Bonnie. «Beh, stiamo sotto gli alberi tutto il giorno e teniamo d'occhio la strada sotto. E apriamo le orecchie per sentire se arrivano altri aerei. Direi che dobbiamo trovare qualcosa di divertente per passare il tempo. Che ne dite di uno stud poker con 5 carte?» Nessuna risposta. «Puglia massima un quartino di dollari, giusto perché abbiamo il tavolino.» Smith sospirò. «Ci sono 3 cose che mio padre ha provato a insegnarmi. Figlio, mi diceva, ricorda sempre questi 3 precetti e non potrai sbagliarne niente. 1. Non mangiare mai in un posto dove c'è la parola mamma sull'insegna. 2. Non giocare mai a carte con un uomo che si chiama Doc.» Si fermò. «Dai le carte.» «Ne hai letti solo 2, disse Bonnie. Non mi riesco a ricordare mai il terzo, e questo che mi preoccupa.» «Seldon, cacciati i soldi in bocca e sta zitto.» Doc allora mescolò le carte come un prestigiatore. Il loro suono ricordò le foglie d'autunno, tendine perlenate in un bordello spagnolo, la chiusura delle veneziane, il venerdì sera Topopà, un ruscello gorgogliante, tutte cose buone, dolci e innocenti. «Ma ci serve un altro giocatore.» «Lasciatelo dormire, ragazzo. Giocheremo noi fino a che non si sveglia.» 10 minuti dopo l'aeroplano tornò indietro, sfilando lentamente 3 chilometri a nord. Scomparve oltre Elk Ridge, diretto verso Blanding o Monticello. Seguì un mattino di silenzio. Il gioco andò avanti attraverso il calore di una giornata umida nell'ombra degli alberi, sotto un cielo solenne, lontano sulla radura alberata, oltre la fine del moncone di strada per Hidden Splendor. Heidegger si unì allora a mezzogiorno. «Dov'è il magnesio?» «Sottoterra.» «Chi dà le carte?» «Doc.» «Servi anche me.» «E l'aeroplano o un aeroplano?» Fece ancora una volta avanti e indietro 3 chilometri e 6 verso sud. «Quante volte ci è passato qui sopra quel cazzo di aereo?» «Ci stai 4 volte. «Sì, mettiamo 10 cents. Rilancia gli altri 10, compare, visto? Che cos'hai? 4 assi, compare, un bel colore.» «Chi sta guardando la strada? La vedo io, tocca a te il mazzo, proviamo un giro di buio.» «Carte, 3, 3, 1, 2 per il mazzo.» «Guarda quel bastardo, tocca a te parlare, Habzug, non mettermi fretta, mi nervosisci la partita.» Habzug perse fino all'ultima fish. «È un gioco disonesto, stupido e noioso», disse, «e se avessi qui il mio scarabeo vi farei vedere davvero qualcosa di spettacolare.» Heidegger fu il secondo ad alzare bandiera bianca. Era ora della siesta. Si addormentarono tutti tranne Smith. Lui salì su un punto di osservazione più elevato a est della radura sopra la miniera. Si sedette su una roccia piatta all'ombra dei pini con il binocolo in mano e si mise di vedetta. Riusciva a vedere per un centinaio di chilometri. Anche se il cielo era carico di nuvole pesanti, non c'era vento, l'aria era pulita, l'immobilità era impressionante. La luce filtrata del sole si allungava su quella strana terra e onde di calore, agitandosi come acqua, fluttuavano sopra i canyon. Nell'ombra laggiù saranno stati almeno 40 gradi. Poteva vedere Shiprock, Utah Mountain, Monument Valley, Navajo Mountain, Kaiparowitz, le pareti rosse del Narrow Canyon, la gola scura del Dirty Devil River. Poteva vedere le cinque vette delle Henry, Ellsworth, Holmes, Hiller, Spennel and Ellen innalzarsi dietro il labirinto di canyon, oltre le cupole e i pinnacoli di arenaia del Glen Canyon. E che cavolo di posto per perdere una vacca, che cavolo di posto per perdere il proprio cuore, che cavolo di posto, pensò Seldon Singh, per perdere. Punto. Instincts are egging us on. Biologists and chemists reducing our Questi erano Drakes con il brano We Are All Animals. Ora si ripassa alla controinformazione con una lettera che praticamente un chiarimento da parte del compagno Gianluca Iacovacci. Allora, leggiamo la lettera di Gianluca. Cari compagni, torno a farmi sentire per una noiosa puntualizzazione dovuta a una spiacevole e superficiale iniziativa di anonimi compagni che hanno dovuto, con la fretta di chi è libero o libera, diffondere un comunicato in cui si dice che il sottoscritto avrebbe nominato un nuovo avvocato di fiducia, notizia completamente falsa. Posso comprendere qualunque pasticcio burocratico o insopportabile formalità errata, diatribe o schizofreniche anomalie della società civile, discussione di cui non me ne frega niente, ma sarebbe stato il caso che fossi stato contattato per dei chiarimenti, prima di mistificare la realtà dei fatti e buttare lì una notizia senza fondamento dell'ultima ora, così tanto per scrivere e senza calcolare la confusione che si è concatenata. Sono sempre qui, purtroppo, a disposizione se mi si vuole chiedere qualcosa. Non mi pare di essere mai stato repulsivo o mi sia negato. Capisco che non ci si renda conto di cosa voglia dire star chiusi 24 ore su 24 in queste sezioni asettiche su misura, in balia di sbalzi di umore, meglio per voi. Ogni avvenimento viene accentuato in maniera esponenziale dall'ego dell'isolamento, in maniera incontrollata, e sono esposto agli eventi, perfino i più banali. Io non posso, come là fuori, fare una semplice telefonata o passare da qualcuno per dirgli ciò che ho da dire. Passano giorni prima che una mia parola arriva a qualcuno, se arriva. Non si può capire, lo so, ma bisogna fare attenzione perché ogni ulteriore stress, oltre a quelli che già mi affliggono, non mi fa per niente piacere. Non voglio inquisire nessuno, ma questa volta non sono stato fin troppo buono. La prossima volta no. Gianluca, 29 giugno 2014, carcere di San Michele, Alessandria. Il compagno, lo ricordo, è in AS2, la sezione speciale per quanto riguarda i reati per terrorismo. Allora, io già avevo più di una volta invitato chi fa controinformazione ad andarci piano con le notizie che arrivano dal carcere, cioè specialmente quando non arrivano dal carcere o vengono dette attraverso avvocati o altri compagni. Quindi rifaccio l'invito anche a nome di Gianluca, che la prossima volta, prima di scrivere qualcosa, è meglio chiedere ai diretti interessati, anche per non far passare i compagni. Cioè, Gianluca aveva chiesto aveva detto che non avrebbe preso un avvocato, già l'avevamo detto nella diretta scorsa che comunque la cosa era molto strana. Chi aveva pubblicato quell'articolo l'aveva ripreso, aveva già puntualizzato questa cosa, quindi la prossima volta è meglio contattare prima il compagno e poi scrivere certe cose, anche perché non c'è nessuna fretta di pubblicare le notizie di controinformazione, specialmente quelle senza senso. Ora ci ascoltiamo un brano degli Anodyne, il brano è Corrosion, e poi dopo si ritorna qui con la lettura dei Sabotatori di Edward Ebbey. costruzione di un ponte. Prolegomeni alla caccia finale. Ok, mettiamo in moto questo show del cazzo. Forza, Doc, alza le chiappe, dati da fare. Via dall'ombra, sotto il caldo. Forza, Abzug, preparaci qualcosa da mangiare. Dov'è Smith? Beh, se hai tutta questa fretta, cucina tu. Maledizione, dov'è Smith? Sulla collina, sta arrivando. Calmati, ubriaconi e poltroni. Poltroni e ubriaconi. Il sole sta già tramontando. E che cosa ci posso fare? Vuoi che mi butti giù dal precipizio o che altro? Tutte e due le cose, Aidak, che ritorna febbrilmente alla vita dopo 24 ore di recupero, pompa il gas della Coleman, accende il fornello, sbircia dentro la grande caffettiera azzurra ammaccata della comunità, rovescia fuori un po' di fondi e il caffè avanzato, e un topo lucido, morto affogato. Come ha fatto a finire qua dentro? Non dirlo a Bonnie, aggiunse rivolto alla sagoma che si profila a sinistra alle sue spalle. Io sono Bonnie. Non diglielo lo stesso. Ci spala dentro 8 cucchiai di caffè, la riempie di acqua e la rimette sul fornello. Pastiglie, pastiglie, ho bisogno di pastiglie. Ma non è nemmeno sciacquata la caffettiera? Perché? Beh, cazzo, dentro c'era un topo morto. Lo stronzo l'ho buttato fuori, mi hai visto? Di che ti preoccupi? Era morto. Comincia a tagliare le patate. Apri 4 scatole di cibi, dobbiamo mangiare. Santo cielo. Dopo aver estratto dal fodero del suo coltello Buck da combattimento, Hydak affetta le strisce sottili un pezzo di pancetta da un chilo, le distende sovrapposte nella padella da campo in ferro battuto. Lo sfrigolio è immediato. Ma chi la mangerà tutta quella roba? Io. Tu, noi, ci aspetta una notte di duro lavoro. Comincia ad aprire 4 latte di fagioli. Ti decidi di aprire quel cilio? Devo pensare a tutto io. E metti a bollire qualche uovo. Sei Madonna! Di uova ne capisci. Ma perché hai questi modi così antipatici? Sono nervoso. Nervoso, e mi comporto sempre così quando sono nervoso. Beh, allora rendi nervoso anche me, per non dire pazza. Scusa. Credo che sia la prima volta che ti sento usare quella parola. È tutto quello che sai dire. Beh, allora ritiro la mia scusa. Adesso sono arrivati anche il dottor Service e Sheldon Smith. Ha così inizio la cena del tardo pomeriggio. I 4 discutono il piano. Per Hydak Smith è lavorare sul ponte o i ponti, a seconda del tempo a disposizione, dei materiali e delle condizioni locali, è per Abzug e Sarves di operare come sentinelle alle 2 estremità del cantiere. Quale dei 3 ponti deve essere ristrutturato per primo? Si mettono d'accordo sul più piccolo, il ponte sul White Canyon. Il secondo, tempo permettendo, sarà quello sul Dirty Devil Canyon. Messi fuori uso 2 ponti d'accesso, il ponte centrale sul Narrow Canyon, sul lago Powell e il Colorado River, prima dell'inondazione non sarà più utilizzabile un ponte. Senza via d'accesso, con o senza di esso, la strada, la Utah State Highway 95, che collega Hanksville a Blanding, le sponde est e ovest del lago Powell, le terre dei canyon occidentali a quelle dei canyon orientali, la strada sarà efficacemente interrotta, divisa in 2, spezzata almeno per mesi, forse per anni, forse per sempre. Ma la gente la vuole questa strada? Chiese Bonnie. Gli unici che la vogliono sono le società minerarie, le compagnie petrolifere, i tipi come Bishop Love e il Dipartimento delle Autostrade, la cui religione è quella di costruire strade. Nessun altro ne ha mai sentito parlare. Beh, era solo una domanda la mia. Riprendiamo con questo filosofeggiare del cazzo, chiede Hydak. Ok, adesso mettiamoci al lavoro. Doc e Bonnie, guardate in giro se riuscite a trovare qualcosa con cui fare dei cartelli. Abbiamo bisogno di 4 grandi cartelli con scritto strada chiusa, ponte inagibile. Voglio evitare che qualche turista finisca con la sua Windenbago a testa in giù nel Dirty Devil River. Non vogliamo mica che ricerca e soccorso voli con il culo appoggiato su tazze di latta dentro la White Canyon Gorge, vero? Oh no, abbiamo abbastanza vernice. Ma perché i lavori stupidi e meno interessanti vengono sempre affibbiati a me? Si lamenta Bonnie. Abbiamo una cassa di vernice spray, dei glow, dice Smith. Bene, io e Seldom ci occuperemo dei crogioli alluminotermici e avremo bisogno, vediamo un po', di circa... Perché si lamenta lei? Perché sei una donna, di 4 tamburi di cartone, forse 6, dov'è la roba? Nel nascondiglio, è proprio quello che pensavo, dice lei, ascolta. Dice pazientemente, preferiresti davvero strisciare sotto i ponti, laggiù, in mezzo ai ratti, ai serpenti, agli scorpioni? Va bene, preparerò i cartelli, allora zitta e mettiti al lavoro. Ma non starò zitta, ok? E chi laverà i piatti? E alla fine si arriva sempre lì, disse Doc. Li farò io i piatti. Un chirurgo dovrebbe sempre tenere le mani pulite in un modo o nell'altro. E dovremmo eliminare le tracce di questo bivacco, disse Aida, così che nessuno saprà mai che siamo stati qui. Con quale veicolo andiamo? Dice Smith. Aidak ci pensa su. Meglio prenderli tutti e due, nel caso ci inseguissero potremmo separarci. Oh, avremo un veicolo di scorta nel caso uno cedesse. Abbiamo un sacco di roba da portarci dietro. Fuori dal caos, ordine. Tutte le mani cominciarono a darsi da fare, impacchettarono la loro attrezzatura nel camper del furgone di Smith, lasciando la rete mimetica fino all'ultimo. Bruciarono e appiattirono le loro lattine e le gettarono in una buca di fianco ai resti del fuoco. Seppellirono le ceneri nella medesima buca, la riempirono, spazzarono nel luogo della sepoltura e del fuoco con rami di ginepro. Le pietre annerite che erano state utilizzate per circondare il falò le avevano gettate oltre il bordo della roccia. Bonnie, Doc si avviarono verso il vecchio campo minerario con in mano martello a granchio e vernice spray. Laggiù trovarono assi di compensato e cartone di fibra e prepararono i loro cartelli grandi, 2x3 con scritto pericolo, strada chiusa, ponte inagibile, grazie. Ne tennero alcuni da mezzo metro per uno, realizzando dei sostegni per tenere in piedi i cartelli e li legarono alle roll bar della Jeep di Hydak. Hydak e Smith tirarono fuori i materiali per la termite dal nascondiglio sotto l'albero, 20 kg di lamelle di ossido di ferro, 14 kg di polvere d'alluminio, 5 di perossido di bario in polvere e 1 di magnesio in polvere, tutto quanto impacchettato in contenitori rotondi di cartone con le estremità in metallo. È tutto quello che abbiamo, chiede Hydak. Non basta, va. Spero di sì. Significa che non so esattamente quanto ce ne servirà per bruciare quei ponti. Ma perché non li facciamo saltare? Ci servirebbe una quantità di dinamite 10 volte superiore a quella che abbiamo. Hydak sollevò 2 cartoni. Portiamo questa roba sulla Jeep. Abbiamo bisogno anche di una specie di bidone con il coperchio per mischiare il tutto. Beh, queste latte nascoste potrebbero andare bene, no? Sì. Perché non la mischiamo qui la roba? È più sicuro mischiarla sul posto, dice Aidak. Caricarono tutto quello che entrò sulla Jeep di Aidak, le polveri, le micce, la dinamite rimasta e il resto sul cassone del furgone di Smith. Il sole se n'era andato, il tramonto svanito dietro una massiccia concentrazione di nuvoloni neri. Tirarono giù la rete mimetica. Aidak prese la sua ramazza di ginepro e cancellò le ultime impronte. Andiamo. Smith e Doc partirono per primi con il pick-up, guidando molto lentamente a fari spenti giù per i 15 km della pista fino all'autostrada. Hydak e Bonnie li seguivano con la Jeep sovraccarica. Il sistema di comunicazione stabilito prevedeva che eventuali problemi sarebbero stati segnalati accendendo le luci. Bonnie sentì il pesante fatalismo montare di nuovo, stringerle il cuore e lo stomaco. Era contenta, straordinariamente contenta, che il raid di quella notte sarebbe stato l'ultimo per molto tempo. La sola cosa che temo, disse a se stessa, è il pericolo. E lanciò un'occhiata pubblica ad Aidak, colto nel gesto automatico di gettare una lattina vuota dal finestrino. Sentì il tintinnio dell'alluminio sulla pavimentazione. Sporcaccione, pensò Zuzzone, sporcaccione sboccato. E ricordò la notte e la mattina del loro grande sacco appena incernierato. Altre sensazioni. Ho preso la pillola oggi, Dio mio. Breve momento di panico. Una cosa di cui non si sente proprio la necessità. Ora un piccolo pasticcio dal cielo. Frugò Nel suo astuccio di medicinali trovò il dispenser e si infilò in bocca una minuta pastiglia e si allungò a prendere una lattina di birra fresca che Heidegger aveva già aperto. La sua mano, la pianta sensibile, mollò la lattina contro l'olio. «Cosa prendi?» chiese lui, sospettoso. «Un piccolo eccitante», risponde lei, mandando giù la pillola con un sorso di Schlitz. «Spero che tu stia scherzando, preoccupato?» «Ho cose molto più importanti di cui preoccuparmi, insopportabile fanatico». Nessuno aveva ancora fatto parola a George del piano ultimo. Il piano di sospendere le operazioni dopo l'attacco di quella notte al complesso elettrico. Non terminare, attenzione, ma sospendere. Nessuno aveva osato. E adesso... Non era certamente il caso. C'era anche la questione dei rapporti interpersonali, pillola o non pillola. Bonnie non poteva farne a meno, ci pensava da giorni, da settimane, e avrebbe continuato a farlo persino per i mesi e gli anni a venire. Qualcosa dentro di lei, nel suo profondo, sentiva l'urgenza di dare un senso a ciò che l'aspettava, al futuro. Era in gestazione nella sua mente l'idea di qualcosa come una famiglia, una casa, ma con chi? Con chi in realtà ad Abzug? Piaceva vivere da sola una parte del suo tempo, ma non aveva mai immaginato per un momento di poter trascorrere il resto della sua vita in un simile impensabile esilio. «Siamo soli, io sono sola», pensava. Solo il suo bisogno e il suo amore tenevano a bada la solitudine e i bui contorni di un fuoco della foresta, quella penosa tristezza della perdita. «George, se solo il bastardo fosse disposto a parlarmi, George, dimmi qualcosa», lo invitò. «E lui?» «Ridammi la birra». Get me out, out of suburbia. There's no harder way to grow up than this. Forget the values and all the set games and all the stupid games they wanted you to play. Take me away. Let us fall back up. describe what happened on trip number 23? E questi erano Dance or Die con il brano Psycho Babbia. Ora si ripassa alla controinformazione con una notizia che ci arriva dalla Spagna riguardante il compagno Gabriel Pombo da Silva. Allora, leggiamo la notizia che ci fanno avere i compagni spagnoli. Da 17 giugno il compagno Gabriel Pombo da Silva si trova in isolamento provvisorio nel carcere di Ayama per essersi rifiutato di essere trasferito in uno dei moduli di massima sicurezza, con tutto quello che comporta vivere in questi moduli, e per essersi rifiutato di dividere la cella con un altro prigioniero, cosa che cercheranno di imporgli ancora una volta. Siamo in attesa di vedere cosa stanno preparando. La situazione si sta già muovendo attraverso l'iter giudiziario, ma consideriamo importante esprimere e dimostrare che Gabriel non è solo, esigendo tramite fax, con telefonate o con la posta ordinaria a seconda di come torna più comodo, che venga posto fine alle molestie dell'amministrazione penitenziaria contro Gabriel. Intanto proponiamo il seguente modello di fax da inviare sia all'istituzione penitenziaria che al carcere di Ayama. Le spedizioni possono essere effettuate da oggi, in quanto le decisioni potrebbero essere prese già da ora contro di lui. Vi proponiamo delle date comuni così da mettere più pressione: venerdì 27 giugno, che oramai è passato, lunedì 30 che è passato, e oggi martedì 1 luglio, quindi ci sia ancora in tempo per mandare un fax a chi vorrebbe mandarlo. Io proporrei di non mandare quello che ora andremo a leggere. Poi sotto l'articolo ci sono i vari indirizzi dove mandare il fax. Ora leggiamo il modello di fax che io dico di non prendere come esempio, almeno in una parte, l'ultima, che a me non piace tanto. Allora, nell'agosto del 2013 Gabriel Pombo da Silva fu trasferito nel carcere di Ayama in Galizia, dove tuttora sta finendo di scontare la condanna. Già da prima, periodo precedente al suo trasferimento, il vice direttore di sicurezza ha deciso di sottoporre Gabriel al regime FIES, nonostante la precedente decisione della giustizia e dell'istituzione penitenziaria, un mese prima, quando Gabriel si trovava ancora in carcere a Villena, di revocare il regime FIES per mancanza di motivazioni. Da allora gli sono state applicate in maniera assolutamente arbitraria varie misure di sicurezza, come vietargli improvvisamente la scuola, nonostante frequentasse la classe già da tempo, non consegnargli gran parte della corrispondenza senza nemmeno notificargli cosa gli fosse stato trattenuto né il motivo, così come sequestrargli in sua assenza gli scritti che si trovavano nella cella. A ciò si aggiungono vari trasferimenti da un modulo all'altro senza motivazioni né logica. Ad esempio, mentre insistono sulle ragioni di sicurezza, lo tirano fuori da un modulo di sicurezza e contemporaneamente parlano della pericolosità per giustificare l'applicazione del regime FIES e il controllo di tutte le comunicazioni, ma gli impongono allo stesso momento la condivisione della cella con un altro prigioniero in una sezione di massima sicurezza. Per il solo fatto di essersi opposto a quest'ultima imposizione, Gabriel da Silva è stato messo direttamente in isolamento provvisorio dal 17 giugno 2014, dove ancora aspetta di sapere cosa decideranno. Tutte queste misure si possono interpretare solo come un costante e intollerabile accanimento contro di lui. Questa situazione deve essere risolta con la fine di tutte le forme di molestia e di ricatto di condividere la cella dopo tutti gli anni di isolamento che gli sono stati imposti durante il tempo trascorso nelle carceri spagnole. Reclamiamo ed esigiamo che venga revocato il regime FIES, così come il mandato di cattura europea OEDE emesso contro di lui dalle autorità italiane, utilizzato per argomentare il repentino cambio di regime a cui è sottoposto e che è stato revocato dalla stessa giustizia italiana già il 18 aprile 2014. Questa era il fax che propongono gli spagnoli. Fax continua con altre cose su cui non mi trovavo d'accordo. Per me andrebbe bene già così, anche se reclamiamo ed esigiamo chiesta ad un'autorità, non è tanto bello secondo me sarebbe molto più bello andare sotto il carcere dove si trova Gabriel da parte degli spagnoli, ovviamente, e fare un bel po' di casino invece di reclamare ed esigere qualcosa dalle autorità penitenziarie. A cui non dobbiamo chiedere niente. Allora, questa era la notizia per quanto riguarda gli aggiornamenti su Gabriel. Ora ci ascoltiamo un altro brano. Loro sono Yonf con il brano Ich bin du. Hai detto bene? Ich bin du. Io sono te. Io sono te. Yonf, e poi dopo si ritorna qui con i Sabotatori e di Edward Ebbey. Sie sind wahnsinnig. Sie wollen mir Angst machen, aber ich weiß, wer ich bin. Ampie pareti di arenaria rosa alla loro sinistra, a sud della strada, la pavimentazione finì loro, proseguirono nella polvere del pick-up di Smith, seguendolo verso ovest per gli oltre 60 km di strada sterrata che conduceva ai tre ponti. Questa notte non c'era il minimo traffico su quella solitaria strada secondaria, anche se i grandi camion utilizzati per il trasporto del minerale dalle miniere di uranio avevano lasciato la superficie sconnessa e corrugata come un asse per lavare. Il rumore della jeep e le vibrazioni del suo carico rendevano la conversazione ardua, ma dato che non c'era comunque conversazione, lei sapeva che a lui, il malmostoso depresso figlio di puttana, questo non importava. Superarono la stazione di servizio e il magazzino degli alimentari di Fry Canyon, si bagnarono nel terrificante bagliore azzurro delle sue luci di sicurezza a vapore di mercurio. Non c'era nessuno e proseguirono giù per la terrazza serpeggiante di sabbia e cespugli verso Glen Canyon, Narrow Canyon, la regione incontaminata di roccia levigata. Comparvero le stelle, non tutte, fioche però, dietro il velo di nuvole. Lei riusciva a malapena a vedere la strada e a immaginare, a intravedere l'orsa, quella maggiore. Dovrei accendere le luci? Lui la ignorò o non la sentì. Stava fissando qualcosa davanti, lontano dalla strada. Massicce silhouette di acciaio contro il bagliore verde del tramonto che ammantava il cielo. Lui accese e spense le luci 4 volte, il segnale di fermarsi. Portò la jeep fuori strada e la parcheggiò al riparo dietro un boschetto di alberi. Quando spense il motore sentì immediatamente in lontananza il lugubre canto di un succhiacapre. E adesso? Disse lei, bulldozer. Di nuovo vivo, animato, il cattivo umore scomparso. 2 bestioni. E allora? Gli daremo un'occhiatina, o no? Non adesso, George, i ponti, mica si muovono i ponti, non ci vorrà molto. Dici sempre così e poi sparisci per 7 giorni, dio cane, bulldozer. Borbottò con voce rauca, gli occhi luccicanti, piegandosi verso di lei, puzzando di birra Schlitz. È un nostro dovere. Tirò fuori le scatole dei bracci rotture da quelle sotto il sedile, si fermò a dargli un lungo bacio sulla bocca e poi smontò. George, torno subito. Lei restò seduta ad aspettare furibonda e disperata, guardando la luce azzurrata dal vetro danzante della cabina dell'operatore di un bulldozer che pareva alto circa 4 metri, tirannosauri di ferro. Sotto ci sono i fuochi d'artificio. È il luogo, è il luogo. Sarà uscito qualcuno anche è fuori dalle carceri. Ci auguriamo. Anche perché è assolutamente giorno, quindi i colori dei fuochi d'artificio non servono a nulla, servono solo le botte, cosiddette. A festeggiare. Allora, andiamo avanti. E allora Smith, sentendo l'eco, si avvicinò. Qualcosa non va. Lei accennò con il capo in direzione dei bulldozer. Lo supponevo, dice Smith. Lo speravo. Fu interrotto dal rombo di un 12 cilindri Cummins turbo diesel che veniva avviato. Scusami. E Smith scomparve. Lei sente una consultazione, 2 uomini che si urlano qualcosa sotto il delirio del potente motore. Smith scende dal trattore di Haida che si avvia verso il secondo. Lei vede la sua torcia elettrica lampeggiare per un attimo vicino al quadro di comando e sente il secondo motore salire di giri. Dopo un minuto, entrambi i trattori avanzavano paralleli nell'oscurità. Sono distanziati di circa 15 metri. Tra di essi c'è un'autocisterna, un cartellone di pubbliche relazioni del BLM montato su pali e una specie di capannone in metallo montato su una slitta dove non c'è neve. Questi oggetti prendono improvvisamente vita, trascinati in movimento da una forza nascosta, e si allontanano tra i 2 trattori come tirati da corde invisibili. Il tabellone si rovescia in avanti, il capannone si piega, il camion taglia una linea diagonale mentre tutto rimpicciolisce decisamente verso il bordo, come lei saprà in seguito, del vicino Armstrong Canyon. Silhouette crepuscolari, confuse nella polvere, Hydak e Smith rimangono ai controlli dei loro trattori, scrutando in avanti, poi scendono come due lampi. I trattori proseguono nella loro marcia senza la mano dell'uomo, sferragliando come carri armati e sparendo repentinamente alla vista, seguiti da cisterna, capanno e tabellone. Pausa per accelerazione gravitazionale. Un'esplosione abbagliante si produce oltre il bordo roccioso, poi una seconda esplosione e una terza. Bonnie sente lo sbarramento tonante della valanga di ferro, alberi sradicati, lastre di roccia abbracciati nella gravità che precipitano verso il fondo del canyon. Nuvole di polvere si alzano sopra l'orlo, illuminate in sfumature infernali di rosso e giallo, in un crescendo di fiamme che ardono da qualche parte là sotto. Hydak torna alla jeep, i suoi occhi color fumo sprizzano felicità. Sulla testa porta un cappellino di twill giallo con la visiera dove è cucito un innocente stemma. Cat Disempower. Lo voglio! Afferra il cappellino e se lo calca in testa. Le cade sugli occhi. Lui apre un'altra birra. Devi regolare la banda che c'è dietro. Avvia il motore, ritorna sulla strada e guida attraverso la fredda oscurità. Ok, dice lei, ma che cosa è successo oggi? Dov'è Seldon? Hydak spiegò. Si erano imbattuti in un progetto di incatenamento degli alberi. I due bulldozer erano stati collegati tra di loro mediante una catena di quelle che si usano per le ancore, lunga 15 metri, abbastanza resistente da sradicare degli alberi. Con questa tecnica elementare il governo stava disboscando decine di migliaia di ettari di foreste di ginepri dell'Ovest. Con la stessa catena e con lo stesso metodo Hydak e Smith avevano semplicemente scaricato nel canyon i macchinari di supporto che erano stati piazzati per protezione e convenienza tra i due bulldozer. Per quanto riguardava Seldon, si trovava già sul suo camion. Ok, dice Bonnie, ma non sono così sicura che sia stato furbo fare questa prodezza. Ok, è un fiore di fuoco brucia sotto il margine del canyon, sempre più brillante con il calar della notte. Tutti possono vedere quel fuoco per decine e decine di chilometri. Adesso la squadra di recupero e soccorso ci troverà di certo. No, dice Hydak. Saranno troppo impegnati a svolgere indagini sul luogo dell'incendio e mentre loro sono occupati lì, noi siamo a 50 chilometri più in là, giù nella laguna scura, a sciogliergli i ponti sotto i loro occhi. Arrivarono al primo ponte. Finalmente Smith e Doc li aspettavano al buio. Sotto il ponte c'era la gola apparentemente senza fondo del White Canyon. Sporgendosi oltre un vertiginoso parapetto, Bonnie sentiva l'acqua gorgogliare ma non riusciva a vedere niente. Raccolse una roccia, la issò con due mani sulla ringhiera, la lasciò traballare lì sopra e poi cadere, rimase in ascolto. E sentì solo l'acqua che ribolliva là sotto. Era quasi sul punto di allontanarsi quando dalla gola si sollevarono in rapida successione il suono della roccia che cozzava, della pietra arenaria che esplodeva e di tanti piccoli schizzi assortiti. Incline all'acrofobia, Bonnie rabbrividì. Apzug! Una luce azzurra danzava davanti a lei, dipingendo 8 fosforescenti sul velluto nero. Lei voltò la testa di lato, cercando di cancellare quell'impressione retinica che persisteva come una macchia di colore evanescente. Sì, dacci una mano, ragazza. Trovò Hydak e Smith impegnati a mischiare le loro polveri, rotolandole davanti e indietro in un grosso barattolo chiuso, 3 parti di ossido di ferro più 2 parti di alluminio polverizzato uguale termite, poi la miscela incendiaria, 4 parti di perossido di bario più una parte di polvere di magnesio. Prendiamo nota. Un piatto forte. Doc Sarvis era lì vicino con il sigaro che gli bruciava tra i denti. Bonnie rimase esterrefatta di fatto, di fronte ad una tale esibizione di incosciente disinvoltura, i suoi ragazzi sembravano inconsapevoli del pericolo, storditi delle loro smanie di potere, deluse. Chi monta la guardia? Domandò. Ah, stavamo proprio aspettando te, mia cara, risponde Doc. Tu sei l'agente catalitico in questo mélange non precipitato, questa replica maligna di chimici dissidenti. Beh, allora andiamoci dentro, dice lei. Chi sta mettendo i cartelli stradali? Noi, risponde Doc. Tu e io, ma aspetta un momento, per piacere. Io sto guardando il dottor Faust al lavoro. Con questa carica abbiamo finito, dice Haydak. Adesso ho bisogno che le vedette vadano ai loro posti. Farò saltare un paio di buchi sui binari sopra l'arco principale del ponte, uno da ogni lato. L'idea è questa. Esponiamo gli archi, piazziamo i crogioli con la termite sopra i buchi, accendiamo la termite e la lasciamo colare giù sull'acciaio. Dovrebbe bruciare tutto se la miscela è giusta. Bisogna quindi però fare qualche prova e ci potrebbe essere stato qualche errore, per cui stiamo attenti. Cioè non sei sicuro che funzionerà? Non sono sicuro di cosa succederà, ma ci sarà rumore, ci sarà un po' di calor bianco. Ma quanto calore ci vuole per far bruciare questa roba? 3000 gradi centigradi pari a 6000 gradi Fahrenheit, giusto Doc? Negativo, risponde Doc. La formula di equivalenza è questa. Per convertire centigradi in gradi Fahrenheit occorre moltiplicare per 9, dividere il prodotto per 5 e aggiungere 32. Dunque, 3000 centigradi corrispondono, vediamo un po', a 5432 gradi Fahrenheit. Giusto, conferma Haydak. Voglio una barriera di sicurezza su tutti i perimetri. Sentinelle, su! Piazzate i vostri cartelli stradali. questi erano 64 Revolt con il brano Next Generation. Ora diamo altre notizie di controinformazioni. Allora, l'abbiamo già detto all'inizio, cioè poco, qualche notizia fa, durante la controinformazione, che praticamente lo sciopero della fame in Grecia è stato concluso perché molti detenuti non se la sono sentiti di andare avanti con lo sciopero, e in più hanno cercato di sabotare con qualsiasi mezzo questo sciopero, e quindi alla fine è finito tutto. Quindi lo sciopero della fame in Grecia non c'è più nelle carceri greche. Però leggiamo comunque una notizia che ci è arrivata proprio un paio di giorni fa dai compagni di Interarma, che praticamente ci informavano che due giorni fa, e quindi la mail è arrivata due giorni fa, quindi si parla di tre giorni fa, questa mattina i compagni Michalis Nikolopoulos e Panagiotis Argyrou, membri della cospirazione delle cellule di fuoco, sono stati trasferiti in ospedale a causa di problemi di salute causati dalla loro partecipazione allo sciopero della fame dei prigionieri contro le carceri di massima sicurezza di tipo C. Ulteriori informazioni poi saranno pubblicate in seguito. Solidarietà con i compagni e prigionieri anarchici di guerra in sciopero della fame. Ora toccherà aspettare gli aggiornamenti che arriveranno dalla Grecia per capire un attimo come è stato sabotato questo sciopero dalla fame, in che forma è stato sabotato, perché alla fine comunque va bene che una parte di detenuti si arrendono, non ce la fanno a portare avanti questo sciopero, un'altra cosa è che viene sabotato. Quindi aspettiamo ulteriori informazioni dai compagni greci che ci chiariranno questa situazione. Ora ci ascoltiamo un brano, lui è Porco Nero, un compagno napoletano messicano che ci ha inviato il CD che si può scaricare attraverso la pagina di download di Radiazione, Me Cago e Nel Control, e poi dopo si ritorna qui con la lettura dei sabotatori di Edward Ebay. Ci ha toccato un mondo di merda, ni modo, stiamo cercando il modo per uscire dal gioco in cui ci hanno incastrati. Si conta palle ignobili, controllo repressione a dei livelli inimmaginabili. Ara Orwell Way, fanta politica, nuovo millennio in cui ormai regna l'informatica elettronica, mandan satelliti in orbita, la guerra digitale è già reale fra camarade seguri da come tentaculo. Se a me ne paresse un stupido spettacolo, una farsa, una realità basia fondata sull'estetica, su medita, madre mia che fracica. Ya llegó il momento de revantarne, attaccar todo estos abuso, no se pueden soportar. Se passaron della raya y hace rato, y ahora les toca pelear usted de rata contra gatos. Tápala, tállala, la videocámara, ya túmbala, no te dejes mirar, ya chingala, píntala, en una acción destrúyela. Tápale los ojos, no te dejes espiar. Tápala, cállala, la videocámara, ya túmbala, no te dejes mirar. Ya chingala, píntala, en una acción destrúyela. Tápale los ojos, no te dejes espiar. Una cámara aquí y otra por allá, por más que tú quieras nunca te librarás del ojo que está en medio de un triángulo, del ojo que está en la esquina, mirando a todos lados, siguiéndote, acostándote, mirándote fijamente. Nada queda en secreto, la amenaza está latente, sintiéndote parte de una masa inmóvil. Los más media han actuado, de ti nada ha quedado, tu opinión se va a la mierda, reducida a un like. Y la lucha en las calles por su ausencia brillará. Las redes sociales son redes de dominación, todos son la misma mierda y crean la distracción de lo que verdad importa, de las reales discusiones. Siempre estás una máquina sin entender razones, alados completamente, así es que quieren vernos podridos de la mente, vigilados estrictamente. Impronte digitali, controllo della retina, una carta di credito, una ricetta medica, un lavoro regolare, pagare una cambiale, la mia routine dalla nascita sta il funerale. Cruzo una frontera, passa un aeroporto, io un pince polizia che te checca il passaporto, parlando di libertà, ma è la libertà di morto. Io non mi conformo, ma hanno creato storto. Domesticados, regulados, saben en donde estamos participando en la marcha, ellos les queda claro, ya saben en dónde estás, también en dónde vives. Solo es cuestión de tiempo hasta que tú te decides actuar en contra de ellos y romper el engranaje de la manera que tú quieras. Que empiece el sabotaje, destrúyeles, quémales, nunca les hagas caso. Libres y y salvajes nunca nos han dominado. Tápala, cállala, la videocámara, ya túmbala, no te dejes mirar, ya chingala, píntala, en una acción destrúyela, tápale los ojos, no te dejes espiar. Tápala, cállala, la videocámara, ya túmbala, no te dejes mirar, ya chingala, píntala, en una acción destrúyela, tápale los ojos, no te dejes espiar. No te dejes espiar, no te dejes espiar. Ya no te dejes espiar, ya no te dejes espiar. La noce del deje da se spiare, una ciurma comincia a funzionare. Doc e Bonnie prendono due cartelli della Jeep di Hydak e li caricano sul furgone di Smith. Hydak prende quello che gli serve, dinamite, detonatori, miccia combustione lenta, prima che Smith si sposti con la Jeep verso ovest. Doc e Bonnie guidano per un chilometro e mezzo via dal ponte a est con il furgone e collocano il primo cartello, poi per altri 400 metri più in là, dove piazzano il secondo cartello, aspettano. Il suono di tre fischi acuti, allarme. Dopo un momento sentono il colpo, il massiccio, tum, attutito, ben compresso, dell'esplosivo che fa il suo lavoro. E adesso, dice Doc, significa che il ponte è già crollato e come torniamo indietro? Bonnie spiega ancora una volta la procedura. Lei e Doc devono stare di guardia in questo punto da cui possono stendere lo sguardo per 15 km lungo la valle desertica. Aspetteranno il segnale di ritorno da Hydak, che significa che ha piazzato il crogiolo con la termite ed è pronto ad accenderlo. Smith nel frattempo sta facendo la stessa cosa sul lato ovest del ponte, dopo il suono di una seconda esplosione. Dopo, ricomincia Bonnie, raccogliamo i segnali di pericolo a ovest del ponte, li portiamo attraverso il ponte centrale del Dirty Devil e li collochiamo ancora a ovest del Dirty Devil. Quindi George fa saltare il ponte sul Dirty Devil. Molto semplice, dice Doc. Semplice. Qual è il ponte centrale? Quello che attraversa il Colorado River. Mi sembrava di aver capito da George che il Colorado River era stato temporaneamente rimosso. Lo sguardo fiero di Doc, il sigaro incandescente, si illuminarono e poi si spensero mentre uno sbuffo disordinato di fumo saliva alle stelle. Ah, ma il fiume è ancora lì, ma adesso scorre sotto il lago artificiale. Che vuoi dire? Silenzio. Bonnie. Il suono di un fischio. Uno lungo. Uno corto. Uno lungo. È ora di tornare lasciando i loro cartelli. Ben in vista sul posto, Bonnie e Doc risalgono sul pick-up e si dirigono sul ponte Wide White Canyon. Bonnie è alla guida. Trovano la strada intralciata da macerie sparse di calcestruzzo e Bonnie è costretta a rallentare e scalare in prima. Al centro del ponte si ferma per guardare due fasce di tondini di rinforzo sparati in alto come capelli elettrificati, neri, storti, fumanti e caldi, che puzzano di nitrati e cellulosa vaporizzata. All'interno dei due crateri sono esposti gli elementi di sostegno del ponte, le grandi travi in acciaio per costruzioni edili progettate per durare secoli, almeno in teoria. Qui Hydak ha piazzato i suoi crogioli, i cartoni da 20 litri appoggiati su una base di mezzo metro per uno sopra i buchi. Ogni cartone è pieno per 2/3 di termite. Sopra la termite c'è uno strato di 5 cm di miscela incendiaria. Sepolta al centro della miscela c'è l'estremità di una miccia corta, fissata con del nastro al bordo del cartone di modo che non possa accidentalmente sfilarsi. Le micce scendono lungo i lati dei cartoni, correndo separatamente oltre il pietrisco verso l'estremità ovest del ponte, dove George Hydak sta muovendo su e giù la sua torcia elettrica. Il segnale Venite avanti del frenatore rivolto ai due idioti parcheggiati al centro del suo ponte. Un accendimiccia brucia nella sua mano sinistra, sprizzando scintille come una girandola del 4 luglio. «Dov'è George?» domanda Doc guardando attraverso i suoi occhiali. «Forse è lui che sta muovendo quella luce verso di noi. Che vuole? Forza!» ruggisce Hydak. «Toglietevi dai coglioni!» «Quello è George!» dice Bonnie nervosamente. Mette la prima e molla la frizione troppo in fretta. Il furgone zumpa in avanti e si blocca. «Forza!» ruggisce di nuovo Hydak. La bomba umana fulminante. Da qualche parte oltre lui nel buio Seldon Sin Smith sta aspettando, guardando, ascoltando. «Cara Bonnie», dice Doc con simpatia, e lei rimette in moto. Il furgone avanza sopra i detriti, si fermano qualche metro dopo Hydak per vedere l'accensione delle micce. «Andate», dice lui, «vogliamo vedere, andate!» «No, d'accordo, Cristo santo!» Hydak avvicina l'accendemiccia alla prima miccia, poi alla seconda. Una spirale di fumo denso si alza da ciascuna punta, la polvere all'interno del rivestimento laccato brucia velocemente verso il suo obiettivo. E adesso che succede? Esploderà? Hydak fa spallucce. «Non ho mai usato la termite prima». Hydak aggrotta le sopracciglia senza rispondere. Doc sbuffa sul suo sigaro. Bonnie si torce le mani. I tre rimangono lì a guardare i due pallidi tubi di termite sul piano stradale al centro del ponte. Le micce non si possono vedere e solamente una lieve traccia di cera bruciata nell'aria rivela i progressi degli inneschi. Le labbra di Hydak si muovono. Sta contando i secondi. «Ora», dice, un bagliore appare prima nell'uno, poi nell'altro contenitore. Un sibilo. E il bagliore si ravviva, diventa una luce bianca intensa, feroce come l'arco di un saldatore, doloroso per gli occhi. Il ponte viene illuminato in un brillio per tutta la sua lunghezza. Sentono un tonfo soffice seguito da un secondo mentre le basi di alluminio si staccano dai cartoni. Un flusso di metallo fuso puro e abbagliante come la luce del sole scorre nei crateri del piano stradale, scorrendo sopra le travi di acciaio. L'interno della gola più sotto viene illuminato e si rivelano i dettagli di rocce, balze e fessure giù fino alle pozze d'acqua sul fondo del canyon. Sputi e spruzzi di scorie incandescenti cadono attraverso lo spazio, scintillando sempre più calde con l'accelerazione della loro discesa, e si tuffano con uno sfrigolio vaporoso nell'acqua. Seguono frammenti di acciaio rosso arroventato e calcestruzzo cotto. Le masse fuse, raggrumate come orrendi tumori sulle travi del ponte, cominciano a raffreddarsi, un raffreddamento evidente allo sguardo, un'incandescenza che diminuisce a vista d'occhio, l'oscurità riavvolge tutti i lati, di nuovo è possibile vedere le stelle. Il ponte è ancora in piedi, apparentemente e fondamentalmente intatto, arcuato sopra il fiume, sopra la trincea del canyon sempre più buio. Resta un bagliore rosso come il carbone del sigaro di Doc sotto la distanza tra gli appoggi del ponte, scintillante come due occhi rossi attraverso le cavità del piano stradale. Ci sono un po' di crepitie sibili, suoni di scricchiolie e rotture mentre si compie l'assestamento molecolare. Accompagnato dagli spruzzi e dagli schiocchi di frammenti che affondano nell'acqua sottostante, quiete. «Il ponte è lì!» I tre rimirano il gioco di luce che si spegne. «Bene», dice Doc tirando al suo sigaro, le due punte di spillo infuocate si riflettono per un istante sulle lenti dei suoi occhiali. «Che pensi, George, ce l'abbiamo fatta o no?» Hydak aggrotta le sopracciglia. «Ho come la sensazione che ce lo siamo presi in culo. Andiamo a dare un'occhiata.» «Non andare là», dice Bonnie. «E perché no? Che ne sai che non sta per crollare tutta la cosa?» «Beh, vado lì proprio per scoprire questo.» Hydak allora avanza sul ponte, saltellando su e giù, cammina verso il centro di combustione e guarda dentro uno dei suoi due vulcani incandescenti fatti a mano mentre la sua faccia si illumina di rosa. Bonnie lo segue. Anche Doc si muove più lentamente. Beh? Lontano. Ad est una luce verde disegna un arco che si affloscia e scompare. Stelle cadenti, dice Bonnie. Come vorrei, pensa. Fissano la scena come ragazzini. Sembra più un lampo, dice Aidak. Mi chiedo, e che cazzo, vediamo bene che cosa è successo. Guardano giù nel buco allo spento ribollire di caldo e acciaio, vedendo quella che assomiglia ad una luminosa gomma da masticare gigante appiccicata all'arco del ponte. Non ha tagliato, mormora Aidak, non ha tagliato del tutto. Controlla l'altro buco. Quello che abbiamo fatto sono solo due saldature del cazzo sulle travi, forse. Forse non ho fatto altro che rendere ancora più solido questo stronzo di ponte e sferra un calcio ad un tondino. Calma, calma, dice Doc, non avere fretta. La tempra di questo acciaio non sarà mai più la stessa. Pensa se qualcuno decide di far passare qua sopra una motrice con rimorchio oppure un bulldozer. Aidak considera l'ipotesi. Non credo, dubito. Ci vuole il plastico, l'esplosivo plastico, maledizione, il plastico, 100 kg di plastico. Non si può usare alta termite, quanta ce n'è rimasta? Ne ha usata esattamente la metà, serviva per l'altro ponte. Bonnie, guardando a ovest in direzione del fiume e del lago artificiale della sagoma nera del Dirt Devil Plateau, vede un paio di fari che scendono lungo la strada circa 10 km o giù di lì. Sta arrivando Seldom. Beh, e insiste Doc. Perché non diamo una seconda passata a una di queste travi? Le facciamo un trattamento intensivo. Meglio tirare giù un ponte che nessuno ci passiamo sopra con un grosso camion, magari una livellatrice. Qualunque cosa possiamo trovare verso Height. Vabbè, ci proveremo, dice Aidak studiando le luci in avvicinamento. Quella non è la mia Jeep. Tre lunghi gridi di civetta galleggiano nell'aria provenienti dalla postazione di vedetta di Smith, accompagnati da segnali di allarme della sua torcia azzurra, una X tratteggiata freneticamente nel buio. La prima coppia di fari è seguita da una seconda e poi anche da una terza. Jetzt alle weg! dass die wirklichen nicht mehr gefangen in der Welt der Technik, gefangen in einem Sarg aus Stahl. Dies ist mein letzter Flug in meine Ewigkeit. Doch ich habe keine Angst, denn du wirst bei mir sein. Und auf der Schleudersitz bricht mir nur das Genick. Ich habe keine Angst, denn du bist bei mir. Improvvisamente il computer si riavvia e uno degli schermi torna a funzionare. Bloccate la porta, rischiamo di rimanere intrappolati qui dentro. Poi davanti a Valerie sullo schermo che a scatti manda le immagini dei vari reparti appare il corridoio appena fuori la porta dell'ufficio di Lerit. Il refrattario si riesce a vedere il comando che è là fuori, poi come un sacco della spazzatura prende Lerit e lo sbatte in un angolo a terra. Tu tienilo sotto mira. Poi portandosi il dito parallelamente lungo il naso, facendo di fare silenzio, Valerie con il suo mitro si avvicina alla porta mentre aspetta che lo schermo completi il giro dei reparti per mostrare quello che avviene a pochi metri da lui, dall'altro lato della porta. Quando a video appare quello che aspettava, Valerie prende una sedia e la scaraventa fuori dall'ufficio, accompagnandola subito dopo da una raffica di mitra. Dall'altro lato i Tarspok, seguendo la traiettoria della sedia, rispondono al fuoco nel vuoto. In quel momento Valerie esce con metà corpo fuori dall'ufficio e spara un'altra raffica contro gli uomini topo, che vengono presi alla sprovvista. Ne lascia a terra almeno 5 prima di pensare di ripararsi dentro all'ufficio. Ma un'altra raffica partita da un Tarspok colpisce il refrattario alla spalla. I ribelli trascinano Valerie ferito dentro. Sì e no, sono una quindicina, o ce la giochiamo oppure tra non tanto arrivano i rinforzi e ci ammazzano tutti. Il rifrattario è ferito, ma sembra farcela nonostante sia già ammalato di influenza. Valerie, tra la speranza di vivere e la morte, scelgo la prima. Un ribelle in modo determinato parla a Valerie mentre guarda negli occhi gli altri ribelli che fanno un cenno con la testa in segno di consenso. Tu resta sempre lì a guardia del sorcio gigante e se ci ammazzano tutti, fai giustizia per noi prima che giustiziano anche te. Beppe, finito in carcella per l'appartenenza ad un gruppo politico di sinistra, parla ai ribelli consigliandogli più che dargli ordini su cosa fare. Poi prende Valerie e lo mette al riparo sdraiato a terra. Valerie, non ti muovere e non fare la solita testa di cazzo, ce la vediamo noi. Valerie fa un cenno col pollice e poi si siede, appoggiato con la schiena alla parete, più che sdraiarsi e con il mitra appoggiato sulle gambe distese. Ci siamo? I ribelli fanno un cenno di sì con la testa. Beppe esce per primo dall'ufficio accompagnato da una infinita raffica di mitra. Dietro di lui il resto di ribelli lo seguono facendo cantare il loro mitra contro gli uomini topo. Lerit si porta le mani all'orecchio ed ha il capochino per paura che qualche proiettile lo possa centrare. Lo scontro a fuoco non dura tanto, i Tarspok vengono eliminati nel giro di pochi minuti e tra i ribelli si contano fortunatamente solo un paio di vittime mentre i feriti sono una decina. Beppe ne è uscito illeso nonostante sia stato il primo ad avventarsi contro i Tarspok. I feriti più gravi aiutati da qualche compagno alle spalle del gruppo. Valerie, per te vale la stessa cosa, il resto di noi avanti verso l'uscita, davanti a noi il sorcio che ci accompagnerà mostrandoci la strada. I ribelli sono straniti, si aspettavano di poter giustiziare subito Lerit. Poi uno di loro, rivolgendosi a Beppe: aspetta, io sto pezzo di merda lo voglio torturare ed ammazzare prima di uscire, se ci va bene, o addirittura prima che un proiettile di quei sorci di merda mi ammazzi. Tu conosci la strada per l'uscita, io no. A me ci hanno portato, come tutti del resto, con dei sacchi neri in testa per non farci vedere dove ci portavano. Sappiamo solo che siamo in un bunker dentro una fogna, ma non sappiamo come uscirne. Un altro ribelle si fa avanti e in modo molto pacato entra nella discussione. Ha ragione Beppe, ci sarà tempo per vendicarsi con l'Erit. Ora pensiamo solo a mettere il culo e arrivare da questa fogna. Queste parole mettono tutti d'accordo. Come aveva chiesto di fare Beppe, i ribelli iniziano ad uscire dall'ufficio. I primi sono il combattente rosso e un altro frutto di gruppo di ribelli armati fino ai denti. Davanti c'è l'Erit con un'andatura da ubriaco sotto tiro di una decina di mitra. E dietro Valerie e gli altri feriti tenuti a spalla da altri ribelli armati. Dietro i feriti altri ribelli armati che gli coprono le spalle. Il silenzio di Docarcelia è rotto solo dai passi dei ribelli. C'è almeno un altro comando di Talspok in giro per il carcere fognario e ad ogni curva del tunnel si rischia di ritrovarseli di fronte. Dopo quasi mezzo chilometro i ribelli sono arrivati davanti all'ultima curva prima del tombino di uscita. Ma ad aspettarli ci sono una cinquantina di Talspok. Non sono gli ultimi sopravvissuti dentro Cacelia, perché ce ne sono almeno altrettanti nella sezione degli infami, ma quest'ultimi sono lontani e tengono sotto tiri sequestrati ancora chiusi nelle proprie celle. All'Erit viene data una spinta da parte di Beppe che lo fa rotolare oltre la curva. «Non sparate, è il direttore!» L'Erit è praticamente finito con la faccia nella melma fognaria. «Il vostro direttore ce l'abbiamo sotto tiro, quindi niente scherzi, topini!» Beppe con un tono sarcastico ammonisce Talspok prima che gli venga l'idea malsana di partire all'attacco. «Dateci il direttore e vi giuriamo che non vi facciamo nulla!» «Topolino, a chi pensi di prendere per il culo? Facciamo così, una volta buttate le armi a terra, venite verso di noi e noi vi garantiamo di non farvi nulla. Ci lasciate la porta aperta, per favore, così noi si esce e tutti siamo sani e salvi.» Beppe sa che i Talspok non accetteranno mai quella sua proposta. «Vi ribadiamo che non vi facciamo nulla, non potete uscire da qui, quindi arrendetevi.» «Ci penseremo, Topo Gigio, per ora pensate voi alla nostra proposta.» Seguono istanti di silenzio, il singhiozzo delle lacrime di Lerit è l'unico a parlare. Ad un certo punto Valerie apre uno dei sacchi dove sono state recuperate le armi strada facendo e ne tira fuori un estintore che ha preso dall'ufficio di Lerit. Poi prende alcuni caricatori pieni di proiettili e si fa aiutare a svuotarli dalla polvere nera. La polvere viene messa tutta dentro una scatola metallica che contiene altri proiettili e dalla quale fuoriesce attraverso un buchetto un pezzetto di stoffa. Tutto viene legato molto stretto all'estintore. Poi, quasi zoppicando, il refrattario si avanza verso la testa del gruppo con l'estintore in mano. Arrivato davanti a Beppe, lo guarda stranito perché non capisce le intenzioni di Valerie. Non capisce cosa voglia fare con quello estintore. «Sono ferito, sì, ad una spalla, non al cervello.» Valerie, con mezzo sorriso e strizzando l'occhio, tira fuori l'accendino dalla tasca. «Non vi spaventate, appena sentite il botto uscite tutti e fate fuoco sui superstiti.» Poi il refrattario tira verso di sé l'Erit prendendolo per le caviglie. «Tu non puoi morire così tranquillamente.» Messo il direttore al riparo, Valerie accende il pezzo di stoffa, aspetta 3 secondi e quando il fuoco è arrivato al buchetto della scatola lancia l'estintore con tutta la sua forza verso i Talspok. L'ordigno ha quasi toccato terra davanti ai piedi degli uomini topo quando esplode, facendo partire una fiammata che illumina il tunnel e arrostisce parte dei Talspok. I ribelli voltano la curva e finiscono a colpi di mitra quei pochi Talspok ancora vivi, ma storditi. Il tombino che porta in superficie è là, spalancato per lo scoppio davanti a loro. Valerie e Beppe sono i primi ad uscire in superficie. «Noi restiamo di guardia all'uscita. Finite quel pezzo di merda ora, buon divertimento compagni di avventura.» I refrattario e il rosso sono accecati dalla luce naturale dopo anni vissuti con la sola luce dei neon di Carcelia, ma sono lucidissimi a fare la guardia all'uscita mentre il resto dei ribelli ha denudato l'Erit che non riesce nemmeno a tenere gli occhi aperti dallo spavento. Il direttore mette fine alla sua miserabile vita di torturatore mentre viene torturato in qualsiasi modo dai ribelli. La sua testa viene tagliata e lanciata nel fiume di melma che attraversa la fogna. Poi tutti risalgono in superficie sotto gli occhi stupiti della gente che passeggia da quelle parti. Valerie, senza aspettare oltre, saluta velocemente i suoi compagni di avventura, poi rivolgendosi a Beppe con una pacca sulla spalla. «Ora ognuno per la sua strada. Abbiamo quasi distrutto un carcere ed ora raccontalo ai tuoi compagni che vorrebbero costruire altri al posto di questo, quelli del popolo. In un post-rivoluzione, una società libera, saremmo tutti popolo e nelle carceri del popolo ci finirebbe solo il popolo. Beppe sorride in modo silenzioso, ricambia la panca sulla spalla e va in direzione contraria a quella di Valerie. Abbiamo capito che questa era la parte conclusiva del lungo racconto di Nazaro 13 di oggi. Non proprio conclusiva. Non conclusiva di tutto, però, che abbiamo deciso di dividere tra inizio e fine, ma adesso ritorniamo lì nelle atmosfere della cercare di abbattere dei ponti dei sabotatori. Andiamo, dice Aidak. Ma da che parte? Chiede Bonnie, sta arrivando qualcuno anche dall'altra parte. Si girano e guardano, due coppie di fari arrivano serpeggiando a destra. Mi sembrava di averti sentito dire che su questa strada di notte non passava nessuno, dice Doc rivolgendosi ad Aidak che sta fissando le luci. Penso che sia meglio andarcene da qui, dice Aidak, sfiora con le dita il calcio della sua pistola infilata nella cintura. Questa perlomeno è la mia opinione. E parte di corsa verso il camion. Da che parte? Strilla Bonnie guardandosi alle spalle mentre corre, incespicando in pezzi di calcestruzzo sbriciolato. Doc trotterella più indietro, afferrandosi in successione cappello, sigaro e occhiali, mentre con i piedoni schiaffeggia la pavimentazione. Non facciamoci prendere dal panico! Calma! Aidak e Bonnie si fiondano sul camion. Aidak avvia il motore in attesa. Doc sale e sbatte la portiera. Da che parte? Beh, lo chiederemo al Seldom, dice Aidak, guidando dritto nel buio a fari spenti verso la luce azzurra che Smith muove in cerchio. Lo trovano sulla strada in piedi a fianco alla Jeep in folle, un sorriso ansioso sulla faccia appuntita come quella di un condor. E il ponte? È ancora lì. Ma indebolito, insiste Doc, strutturalmente danneggiato e sull'orlo del collasso. Forse, dice Aidak, ma io onestamente ne dubito. Quelli stanno arrivando, sottolinea Bonnie, discuteremo poi del ponte. E qual è il piano di fuga? Chiede Aidak a Smith. Smith sorrise. Quale piano di fuga? Pensavo fosse Bonnie incaricata di elaborare i piani di fuga. Non facciamo gli spiritosi, scatta Bonnie. Da che parte ce ne andiamo, Smith? Adesso non farti venire luce. Guarda in su la strada verso ovest. Le luci che ora scompaiono dietro a un dosso si avvicinano lentamente. Abbiamo ancora un paio di minuti, così ci infileremo in quel raccordo abbandonato e aspetteremo che passino. Poi ritorneremo sulla strada e ci dirigeremo su per il Maze e l'area di Robert's Roost. Laggiù potremmo stare nascosti per 10 anni, se è il caso. A meno che non preferiate nascondervi da qualche altra parte. O magari è meglio... Sì, è vero. Magari è meglio se ci separiamo dopo il ponte di mezzo a metà. Di noi noleggiano una barca Hite e scendono per la laguna di Starico e fissa altre luci in avvicinamento da est. Dio mi fulmini se stanotte non si è mobilitata tutta la brigata di missionari di ritorno. Quel Bishop Love, quel vescovo di merda, vuole veramente correre per governatore? Tossico, figlio di puttana, motherfucker, tu che dici? Bonnie, amore mio, che dici? Io dico che dobbiamo andare e non voglio che ci separiamo. Potrebbe essere più saggio, disse Aidak. E tu, Doc, che ne pensi? Chiese Smith. Il dottor Salvis si prende in mano per un istante il sigaro. Stiamo insieme, amici. Smith sorride felice. Anch'io preferisco. Adesso seguitemi. E niente luci. Monta sulla Jeep e guida giù per il raccordo chiuso della strada originaria. Aidak lo segue. 500 metri dopo, dentro il letto profondo di un ruscello in secca, Smith si ferma. Aidak fa lo stesso. Tutti aspettano al buio, gli occhi sbarrati, i cuori pompanti, i motori in folle. È meglio se lo butti quel sigaro, Doc. Oh, certo. Le luci superano la collina e passano la curva. Le prime, le seconde. A est del ponte anche l'altro gruppo si sta avvicinando, ma lentamente, avendo appena superato il primo dei cartelli di pericolo, danger. Al centro del ponte è possibile vedere ancora una latta fluorescente rosa, ma dura poco, si raffredda e muore. 5432 gradi Fahrenheit di termite fusa per niente, uno splash di magma nella notte e nulla più. I fari anteriori, le luci posteriori si allontanano sulla strada più avanti. Negli interni debolmente illuminati sono seduti uomini con pistole e fucili stretti tra le ginocchia, con gli sguardi che scrutano tutto intorno. Rumore di pistole che picchiano, valvole che scoppiano, pneumatici cinturati in acciaio con battistrada largo e tassellatura asimmetrica ampia e profonda macinano la sabbia e le pietre. Riflettori giocano verso il ponte, su per le colline, sopra le loro teste. Il terzo veicolo non segue gli altri, si stacca alla sinistra del guidatore, lascia l'arteria principale e imbocca qualche strada alternativa, avanzando lentamente ma con costanza da questa parte. Puoi scompare, merda, mormora Smith, che ha mollato la jeep ed è appoggiato al parafango anteriore del suo camion. Hydak tira fuori la sua piccola carica, naturalmente. Problemi? Il terzo credo sia più sveglio. Rimetti il ferro dove l'hai preso, sta venendo proprio da questa parte. Ah, molto bene, dice Hydak. Credo che non ci siano rimaste molte possibilità, lo schiacceremo come un asino d'uva. Smith scruta nell'oscurità, i suoi occhi da coyote esperti e corrucciati studiano il terreno circostante. Beh, allora ecco cosa faremo. Deve passare per forza sopra quel dosso lì davanti, così non ci vedrà fino a che non sarà proprio sopra di noi, ma anche allora non ci vedrà di certo, perché a quel punto noi accenderemo le nostre luci e ci lanceremo alla sua sinistra attraverso la macchia nera, prima che riesca a pensare chi siamo. Ma quale macchia nera? E c'è Spugli. Seguimi e basta, Giorgio, vecchio asino, blocca i muzzi e inserisci le quattro ruote motrici e punta quel riflettore su di lui e tieniglielo fisso sugli occhi fino a che non siamo passati tutti e due. Poi tagliamo per i canyon tirando come se stessimo correndo per le elezioni. Ah, mi devi solo seguire. E Smith ritorna sulla sua jeep. Hydak scende, blocca i mozzi delle ruote anteriori, rimonta, inserisce la trazione integrale, manda su di giri il motore. Quale riflettore? Chiede Bonnie. Questo? Quella è la manopola di controllo e le mostra come muoverlo. Indirizza il raggio sul tipo seduto a fianco del guidatore. È lui quello che potrebbe sparare. E io che devo fare? Chiede Doc. Prendi questa. Hydak gli passa una 357 Magnum. No, prendila, Doc. Ti troverai sul lato che scotta. Ci eravamo già messi d'accordo tanto tempo fa, dice, che non ci sarebbero state violenze sulle persone. Allora lo farò io, dice Bonnie. No, tu non lo farai, dice Doc. Tenetevi, dice Hydak, siamo pronti a partire. Tribolist, da Doc, cosa? Sono caricati sul camper, ecco cosa posso fare. Metto giù i triboli. Il furgone si sta già muovendo. Fammi scendere qui. Non c'è bisogno che scendi. Usa la botola, Doc. La che? Non importa. Smith davanti ha acceso i fari della jeep e sta risalendo la sponda più lontana del ruscello in secca. Hydak lo segue attraverso il turbine di polvere, accendendo a sua volta le luci. Accendi il riflettore, Bonnie! Lei lo fa scattare. L'interruttore, il raggio potente colpisce il collo di Smith. Toglilo di dosso, solo un pelo! Su, a destra! Bonnie ruota la luce in modo che caschi oltre la jeep, direttamente tra la coppia di fari che sta risalendo la parte opposta. Raggiungono la parte superiore, le luci illuminano le loro facce. Hydak gira il furgone verso sinistra, fuori dalla ruota del veicolo che sta sopraggiungendo. Il riflettore acceca l'autista. Hydak scorge la faccia corrucciata di Bishop Love e poi l'uomo seduto al suo fianco che si abbassa la tesa del cappello sugli occhi, il crepitio di arbusti schiacciati, l'acciottolio delle pietre contro il fondo del veicolo. Love, Bishop ha bloccato la sua blazer, impossibilitato a vedere alcunché. Abbassa! Abbassa i tuoi dannati fari! Bercia il vescovo mentre gli sibilano accanto il riflesso del metallo di un'arma, il suono di imprecazioni poco sacre, lo scatto secco dell'otturatore. Persino sopra il lamento dei motori, lo scoppiettio dei rami che si spezzano, Hydak sente e riconosce quel rumore leggero ma inconfondibile. Giù tutti, urla! Qualcosa di caldo, pesante e maligno, Magnum e a punta cava, frusta lo spazio della cabina del camion, lasciandosi nella scia un paio di stelle gemelle, nel lunotto posteriore del camper e nel parabrezza, una lacerazione frastagliata nella tela della botola. Seguito un microsecondo dopo dalla deflagrazione della canna, la detonazione dell'arma. Tenete giù la testa! Hydak riesce a raggiungere il controllo del riflettore, ruota il raggio di 180 gradi negli occhi degli uomini alle loro spalle. Una seconda stella appare come un miracolo nel vetro di sicurezza del parabrezza, quest'ultimo a soli 10 centimetri dall'orecchio destro di Hydak. Il disegno ragnatela delle fratture si sovrappone al disegno del primo colpo. Haidak sale in seconda, doppietta, pedale dell'acceleratore a tavoletta, quasi lascia sul posto la jeep sgommata di Smith. Lancia un'occhiata nello specchietto retrovisore e vede, attraverso la densa massa polverosa che galleggia nella colonna di luce del riflettore, vede i fari del veicolo del vescovo che arretrano, tentando l'inversione, manovrando avanti e indietro anche nello stretto spazio disponibile. Bene, pensa Haidak. Ah, ci vengono dietro, ovviamente. Radio occupate laggiù. Il branco rimasto vicino al ponte riceverà l'informazione, lo attraverserà, verrà da questa parte, certamente, ma che altro? Dunque, la caccia comincia, oppure ricomincia. Che altro ti aspetti? Fiori, nastri, medaglie? Doc ha detto qualcosa sui triboli. I triboli? Radio Azione. Radio Azione. Contro informazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Informazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org.